tanto l'acqua, cambio. Leggerissimo, leggerissimo, proprio un accenno, ma leggero, leggero. Infatti io lo voglio così, non mi piace l'eco forte che ripete troppo. Se voglio lo regolo, lo posso regolare, ma più lo porto indietro più lo regolo, aspetta. Non è che non devo fare nulla, il microfono è normale, però vabbè, è lavorato da me. Devo sorrisare. Sì, sono al bivio per tutti. Se si trovano persone che camminano a 10 all'ora io non ne ho colpa. Certi punti non puoi sorpassare, capito? Se sorpassi vai se c'è più posto di blocco ti giusto. Adesione, Eugenio, cambi. Siamo le qua siamo. Io che arrivo a figliare mimose, ci vieni? Sì, guarda, no, c'è una guarda, non rigua, guagliù. Cioè, se pensi in caso che il giorno della festa della donna, le mimose, un masettino piccolo, prendono 10 euro, no, che in caso viene da farti il bagno. Poi non le sopporto l'odore, lo sai, mi fa male alla testa. Ciao, con l'odore per forte, cazzo, ti fa male al capo. A me perlomeno mi fa così. Non so agli altri, però a me fa così. Sì, col camper Eugenio, ah no, sì, col furgone. No, col furgone. Va bene, sì, sta andando bene. Ma cosa, il furgone? Il furgone è bene qua. Ti puoi fare pure i traslucchi, mi. Sei solo lì, sono là, bravo. Sì, a rotondi. Pare che la... Bravo. Mi ha messo la roba. Mi fermo e scendo, va, non ti arrivo, vieni qua la rotonda, sono dove posso parcheggiare io. Ah, c'è adesso la parcheggio, vieni, vau. Testa leggero ma martellante che mi disturba anche lo stomaco, mi dà un certo senso di malessere, qui c'ho lo stomaco scombussolato, ho mangiato solo il primo, poi mi sono fermato perché non me la sentivo proprio, guarda. Anche io ho mangiato, ma ho mangiato diciamo un pochino di tutto, no, non ero io tranquillo, sai dove sta male? Sta male, ha troppo acqua da sedere, proprio acqua, senza essere colorata, proprio acqua. Ha struzzo, come se fosse, che se si è fisciata. Oh! Aspetta, addirittura non colorata, come se fosse acqua, che strano. Ma non ha toccato niente di strano fuori, no? No, no, è come l'ho portato in giù, l'ha subito fatta. Secondo me è disposto di stomaco, come è più genio. Adesso, prova a non mettere le verdure stasera, perché solitamente non sai che metto le zucchine, le carote in mezzo, no? Noia. Pasqua del cazzo, guarda. Sì, insomma di testa è strano, mi dà anche un senso di stomaco sotto sopra e un senso di malessere. Altro sanno più uscire, andare qua, andare là. Per carità. Era già da qualche giorno che mi dà fastidio sto mal di testa. Già da 2 o 3 giorni. È leggero, però è scocciante proprio. Ma la sta roba è sinusite, no? No, mai avuta sinusite. Non fa male nemmeno premendo, nulla. È un mal di testa un po' tipo, un po' verso il lato sinistro, leggermente, come si dice, emicrania, mi. Prende così, quella della sinusite prende così da una parte. Ma perché lo stomaco un po' sotto sopra? E allora quella è nausea, forse, non fa così. Allora non è sinusite. Vabbè, qualche giudizio ci vuole per ordinarti la festa. Vabbè, tanto oggi non dovevamo uscire, forse domani, vediamo. Ehi, sarà qualche accidente nuovo, mi? Qualche accidente nuovo, vabbè, speriamo bene. No, io mi sono praticamente... mi sono fatto un giro, ma sono andato prima però a casa di parenti, amici, cosa, a pranzo, poi sono andato a farmi un giro con mio nipote a Plattamona, ci siamo sentiti con Eugenio e ci siamo trovati a Plattamona, siamo stati un po' parlando e poi ce ne siamo andati. Era molto di Plattamona, una cosa, guarda, un deserto. Oh. Ma com'era il tempo? L'aria era fredda? C'era vento o non ce n'era? A Plattamona c'era per appena più vento, a Porto Torre c'è molto di più, a Plattamona invece era più coperto, c'era meno vento. E... diciamo che ci poteva stare tranquillamente, un venticello leggero c'era, ma no, più di tanto. Poi quei cani di nuovo si stavano, come stavo facendo scendere in testa, dalla cosa stavano di nuovo ringando, stavano venendo, tutto qua in vita di prendere una macchina e ci stavano andando. Sì, sono dei rompicoglioni quei cani, si attaccano a cani, a motorette, a macchine. Capito? Solo quando mangiano sono simpatici, capito? Sono contenti, se no sono dei rompicoglioni. Ho visto la tua fidanzata. L'ergastolana, la megera. Ho detto, mi quella che Claudio gli dice che ha rotta pigliana, gli dice che la fidanzata. Lui dice, ma carità. Adesso d'estate la faranno sloggiare quella lì, perché qui ce la fanno andare tra sé, tutta la gente che c'è. Ma cos'era? Seduta su marciapiede, come sempre? Quella passa la vita così, seduta su marciapiede, per carità. E d'altronde cosa ha fatto? Deve fare la guardia della sua casa, la sua villa, la tua, per carità. Ma anche questi enti, che cazzo ha fatto? Dare un posto sicuro, cazzo, invece che farla stare lì e fargli la cassetta. Comunque lì il tram non ferma più, ormai. Il tram si ferma lì, dopo il ristorante Ernesto, quasi di fronte. Non si ferma più là, da quando è crollato Plattamona lì, la rotonda. Ma quando è giusta no, si ferma, perché adesso, vabbè, lo stanno facendo perché ci sono quelle transenne, sicuramente le hanno messe anche le bucciarissa. Come tornano quelle transenne, gira ancora. Eia. Certo che quando faranno i lavori la cacciano via, sì, c'è da cercare un altro posto. Ah no, prima Plattamona già è facile, sfascia una casa, tanto la gente se non è d'estate ci va, per l'estate che deve cercarsi a lui. Già, devo chiudere, dai, non me la sento. Come mai? Cosa c'è? C'ho lo stomaco sotto sopra, dai, sentiamo. Va bene, ma non c'è problema, vai tranquillo. Speriamo che passi subito. Ehi, Raffaella, Natalino, Natalino, e faccio l'intendo. mangiava buona Pasqua. Ehi, e beh, sono finito. E i beni sono finiti. Allora, domani ci andiamo al lavoro, così recuperiamo altri 100 euro per campare. E vabbè, si fa per dire, no? Per... Tra che te mi fai di nuovo? Non c'ho niente da fare. Siamo a pranzo in campagna, ma io vado verso 9:30. Quindi, alle 7 a mezzogiorno, che tiro andrà bene, no? È tanto. È un casino, Ma che tempo sta facendo lì a, a Budosopio? Ma, no, che... Non si sa cosa vuole fare, mi stamattina pensavo piovesse, invece non ha piovuto, meno male. Eia, infatti, non è bello bello, eh. La temperatura, come hai detto tu, è bassa, mi capito? E vabbè, faccia quello che vuole fare più. Tanto. Adesso già inizia il tempo buono, già ne abbiamo tempo da... per goderci il sole, mi mandiamo sole, ecco che vuoi fare. Però col sole, sai, si possono trovare quelle giornate che magari in questa piovendo non escono, mi. E anche qua non pensare che sia diverso, no, più. Anche qua se non piove è un casino, capito? Se non piove tira vento, diceva quello, non anda bene, no? E allora, no, ma poi a volte la mattina quando io esco, no? Tu già hai scoperto lo stesso, c'è freddo, ma adesso c'è freddo, poi verso le 9:30, alle 10 inizia il caldo, capito? E ti butti lì, butta dolore, tutta cosa. Questo tempo qua non è stabile più, non è tempo bello. Adesso domani tu ne vedi, mi imbecilli, capito? Mi spiaggia, petto nudo, ma adesso fanno anche il bagno. Dopo martedì sono a letto con la bronchite. No, non fa, io sono andato zona di mare e la mattina c'è freddo, capito? Tengo giù bottino fino a metà mattinata. Domani lo tolgo, però non sono maniche corte, sono leggero ma maniche lunghe, capito? Ancora bisogna aspettare. Ogni cosa a suo tempo, una ragù. No, non ho sentito nessuno. E io, vabbè, ma qua la Sassari tu non li senti, eh? Non si arrivano lì da te, Pino. Tranne Antonello, Roberto, che siamo qua in alto, ma gli altri non ci arrivano. E Antonello Muru, c'ha il fratello che è ricoverato a Tiesi. E quindi sta sempre andando e tornando, capito? Un po' assente dalla radio in questo periodo. È un casino, Pino. Non mancano mai, no? E c'è importante già la giornata, no? E più, quello c'è, quello bisogna fare. Cosa fai? E per forza te moralizza. Perché se un fiamme, così giovane, e devi dare ancora tanto, però se c'è poco cosa fai? Quello è il problema. Quello è il problema, è che non voglio più fare niente. Poi si lamentano, capito? Dai, esce, vediamo un po' se qualcuno a Sassari, c'è nessuno attacca lì, niente a fare, sono tutti andati in chiesa, all'ora, tutti andati in chiesa, a salutare il prete, capito? A cui non ne manca nulla, più. Allora, a quello non ne manca niente, no? Già ce l'ha la mensilità, già ci arriva a fine mese. Allora, poi non ha niente da che lamentarsi, tanto. Non è che fa molto. Oh, ma quello interno o quello esterno? Ho capito. E il piede, a volte se si piega il capo, fa un falso contatto, ti si stacca male la calza. O si centrale muro, può capitare. E quindi non ricevi bene, non esci bene. Però adesso ti stai arrivando bene. Segnale 5, radio 5. Ma quello dell'antenna o lo spettrone, la luce più luce, vuol dire che c'era qualcosa in corto, più, capito? Vuol dire che c'era qualcosa in corto e allora hai fatto bene a cambiarlo, se no ti faceva rientro e ti bruciava anche la radio. Il prossimo mi ha detto che ha schiamato, vuol dire che c'era qualcosa che non andava, non ho capito. L'hai messo apposta adesso, l'hai messo nuovo, non ho capito, capito. Insomma, già hai messo a posto tutto. Quello bisogna farlo più, e adesso questa settimana abbiamo tante la natalino, e poi dobbiamo scendere anche quella di Eugenio per rimontare l'amato, anche noi, dai, in gruppo, qui pochi siamo rimasti, cerchiamo di darci una mano, però quando sei pronto, basta che dai un fischio, non ce n'è problema. Sì, sì, sì, tu mi piaci. Aspetta, io ho capito tutto, ma vabbè, non ti fidare, però, perché lì già mi ricordo che era un casino, dopo appoggiare la scala al tubo, veramente, non l'abbiamo piazzata, un casino. Aspetta che c'è Eugenio, sicuramente mobile. Ciao Eugenio, sto parlando con Pinuccetto Nuovo da Budusoma, ma a te sicuramente non ti arriva, non lo senti. Ciao, avanti. Eia, ciao, saluto, volevo dire che io sabato sono a Budusoma per la festa. Ah, ben meda, e che festa c'è? Pinù, Eugenio ha detto che sabato è a Budusoma per la festa, che festa c'è? Deve venire a Budusoma Eugenio per la festa, che festa c'è? E che festa c'è Eugenio? Non sa nulla a Pinuccio. Del vino, le cantine aperte, ma lui è di Budusoma. E certo che di Budusoma, allora di dove? E le cantine Pinù, l'uscio delle cantine aperte, infatti. Siccome lui non ne fa cantine, o oggi è capito, quindi non è informato. Se c'è qualche festa in piazza, le mandi gare già ci va, no? Però queste cantine lui non è molto amante, perché non beve solo acqua e aranciata, capito, peggio di te. Io vado perché così, col camper. Come si chiama? Lui si chiama Pinuccetto il Moro. Tu quando sei a Budusoma mettiti nel canale 10 e chiama, capito? Se lui è all'ascolto già ti riceve, così ti offre un caffè. Pinuccetto Occhio, no, Pinuccio il Moro, quando sono vicino a te, dire che esco anche bene al camper, che già mi sento. Ehi, sì, Pinuccetto il Moro lo chiamiamo, Pinuccio si chiama. Non c'è il Moro, capito? E quando sei lì tu chiama, se lui è in zona già ti risponde, Pinuccio, non c'è nessun problema. Tanto non manda già Pinuccio a buffare. Hai capito? Quando vanno loro a fare queste cose, ci sono i carabinieri che li fermano subito, no? Qui invece i forestieri no, li lasciano andare. Vabbè, lui viene col camper, capito più? Lui sta sempre in giro, a destra, a sinistra, col camper, fa queste manifestazioni, insomma, già fa bene, sì, ma infatti già vi incrociate sicuramente. Lui c'ha una macchina rossa, mi sento dire che la macchina, una macchina rossa c'ha, già vedi l'antenna, quindi se sei in radio lui già sta qui, mi sul canale 10 o sul canale 5, ma già mi sentite comunque, tanto mi giro sabato mattina. Comunque, come arrivo a Budusoma io faccio chiamata. Sì, anche tra la puoi fare chiamata, lui già riesce bene allo stesso, già è attrezzato in macchina, non mi ha problemi. Anche se lui è a Battara o a Tieri, già ti sento lo stesso. Ma adesso è a casa? Sì, adesso è a Budusoma a casa, abbiamo piantato io e Antonello lì sulla penna. Un po' di anni fa, capito? Prima abbiamo piazzato l'antenna, c'era una bellissima giornata, ci stavamo cuocendo dal sole, e poi invece ci ha cotto Pinuccio a forza di carne e di vino. Sì, si va sempre qui, lo so. È un bel ospitale, sempre a fare. Ah, noi ci stavamo andando, solo che lui è così. Noi stavamo andando via, capito, non sapevamo niente, però invece siamo scesi a lavarci le mani giù, ed era già apparecchiato, tutto pronto, adesso via. Pinuccio, bei tempi a Pinù, bei tempi, il 2006 era, dai. 2006 era, 2005-2006, certo che sì, lì c'avevo il Volvo io, veramente c'avevo la macchina, Station Wagon, con il Volvo 40, quindi eravamo venuti con quella. Io ero tranquillo, è un problema che ci ha portato anche, anzi gli hai data tu la birretta per il viaggio, un ziroso ragazzi, mi sono le bufale a Bao, no, io dovevo guidare, quindi ti ricordo che ti avevo anche detto, mangiato, sono stato bellissimo, ci siamo trattenuti, però poi non è che ne puoi approfittare, capito? Antonello ci ha provato tutto il viaggio bevendo questa birretta minoretta, un ziroso ragazzi. Però una bella giornata, è una buona giornata. Anche Lucariello era venuto una volta, no? Aspetta Giuseppe, cosa hai detto prima? Ehi, ehi, ehi, Antonio e Luca, vamo allora. Ehi, ehi, Lucariello, avanti il break per Claudio. Ciao Giuseppe, buon Pasqua anche a te e a tutti i tuoi. Sono in compagnia di Pinuccetto Moro da Budusò, che non lo so se tu ascolti, e poi c'è Eugenio. Eugenio, dove sei tu? A casa. Quindi Eugenio, che è a Porta Torres, che tu non senti perché lui c'ha ancora questa potenza piccolina, capito? E vabbè, non ho la potenza, la zona, eh. Uia, uia. Vieni tra qua, zona alta. Oggi, hai visto? Tu vieni in tutta la Sardegna, eh? Oh, troppo bene sta qua, troppo bene. Non la cambierei per nessun'altra zona, guarda. Solo per come si sta, lui. Guarda, io qua abito dall'85. Mi sono staccato 3 anni, ero in Gappasco, dovevo guardare la situazione, eccetera. Poi c'erano altri motivi, eccetera. E poi sono rientrato. Ok, però ti posso dire che anche questa zona non sembra neanche io abito in condominio, perché è talmente tranquilla che non posso lamentare. Ho tutte le mie esigenze, tutte le mie cose, dove nessuno mai e poi mai si è permesso di rubare. E quindi sto bene, un giardino grande all'interno, non ho problemi. Sembra in campagna, la zona già è campagnola, però è molto tranquilla, non è aburottosa, è una zona tranquilla, serena, già l'hai vista. Non posso lamentare però, anch'io, le mie cose sono quelle, infatti non mancherà molto, insomma, che cambieremo però. Mi dispiacerà sicuramente. Vabbè, pazienza. Avanti Pinuccio, hai sentito Giuseppe D'Alghero? Giuseppe, tu senti Pinuccetto il Moro da Budusò? Sembra che sto parlando da solo, vero Pinuccio? Non ti intende, no? Non ti sente nessuno? Vabbè, se consideri allora Pinuccio sta arrivando 5-5 da Budusò, Giuseppe tu sei 9 D'Alghero. 9 è Eugenio da Porto Torres, quindi considerate la distanza, andrà bene, non c'è problema, avanti Eugenio. Ma io lo sento a Giuseppe là dietro, basso ma lo sento. Il problema è che non ti sente lui, vero Giuseppe? Non lo senti Eugenio tu? Attento Giuseppe Alghero, cambio! Non ti sentono, non ti ha fastidio che non ti sentano, solo perché non ti vuoi prendere un lignaretto, bello, un bevuce tutto il tuo, quanto un alimentatore, non ti cambia niente, però metterci anche la radio, quando c'è gente così, e tu vedi che arrivi tranquillo e sereno. Non ti arriva fastidio, io se non arrivo mi incazzo. Io no, perché incazzarsi fa male, io non mi incazzo. Io sono contento perché col furgone esco troppo forte, a casa mi ascoltano più o meno tutti, quelli che mi interessano. E quelli che ti interessano, se c'è un questione, c'è gente da dietro, gente da lì, gente da là. È troppo bello, come ne sento qualsiasi. Arrivo 9.30 io da Marco, sì arrivi 9.30 da Marco, ma non arrivi. È bello arrivare tutto dentro Sassari, ma anche tutte le zone che ci sono, tutte, dico tutte. A me mi sento in tutta la Sardegna, tranquillo. Vabbè, tu hai la posizione anche alta e libera, quindi magari se io metto l'antenna su riesco a entrare anche ad Alghero. Beh, se tiri un po' l'antenna forse sì. No, ma molti sono forti dentro Sassari, capito? Solo perché sono a vista ottica uno con l'altro, a 10 metri uno dall'altro, non capito? Se lui si usa nel vapore, poi se uno va fuori non intende. Vabbè, è la zona questa micidiale, no? Non perdona. Ben coperta, bene aperta, bene aperta. Ma io prima ce lo sentivo anche la via Pascoli. Anche la via Pascoli l'ho sentito, benissimo. Sarà una zona buona anche quella. di più. Non le chiede, non le vuole, già lo so che ce l'hai giù, sempre ce l'hai quello nero. Quello che c'avevo io è quello che c'hai tu. Ah, sì. E quanti vatti dà più quello? 4 o 5? Già ho capito quale, sì. Se me lo ricordo, quello che avevamo messo a posto, diciamola. Già va bene. Avanti Giuseppe, come è passato la domenica? Benissimo, sono contento. Anch'io, stamattina ho fatto un po' di cosette. Stasera sono a casa, domani me ne vado al lavoro fino a mezzogiorno e poi praticamente ce ne andiamo a prendere in campagna alle 9:30. E poi da martedì si ritorna alla normalità, Giuseppe. Tanto queste feste mi cosa portano? Nulla portano. Thank you. zona, Giuseppe, la zona, se no come me escono, ce ne sono altri che escono molto bene, è che purtroppo c'è il segnale basso e quindi non li senti come senti a me. Però ti ripeto, 430 è una signora radio, infatti io non l'ho mai data, avevo 240, il C80 che c'hai tu, altre radio, ho preferito dare quella e tenermi 430, capito, il 440, perché è veramente una signora radio il 430, un ricetrasmettitore favoloso. È dall'anno scorso che fa questo problema, prima non l'aveva mai fatto. È stata tutta revisionata qua a Sassari, ricontrollata, cambiato il display da un radioamatore che riesce appunto a fare questi miracoli. Non aveva mai dato segno di pazzie. Poi ha iniziato un pochino, che appunto mi si spegneva, poi si spegneva, si riaccendeva, il tubo. Alla fine si spegne e non riaccende più. Devi aspettare che si raffreddi completamente, quindi al giorno dopo la puoi riaccendere. Non so cosa sia, perché io non sono un tecnico, non lo so, sicuramente qualche falso contatto sulla fase di alimentazione da qualche parte che va a chiudere proprio l'alimentazione stessa, bisogna mandarla. Però ti ripeto, quando è in funzione dà ottime soddisfazioni, ma poi non è che lo dico solo io, lo dicono tutti quelli che sono amanti di Kenwood, che il 430 forse di questa serie qua è la numero uno in assoluto, non c'è né 440 né niente che tenga, perché è una radio eccezionale, è meccanica, è particolare, ma ha un ricetrasmettitore favoloso, la ricezione è completamente diversa dal 440 e la trasmissione è un'altra cuba. Sì, probabile pure che ci sia quello, perché Kim l'aveva già riparata una volta e controllata, ma aveva detto stai attento perché quella radio ha tantissimi falsi contatti, quindi prima o poi ti lascia a piedi, mi ricordo queste frasi. Infatti mi ha lasciato a piedi, perché guarda, esteticamente è nuovissimo, nuovissimo, ti ripeto, mi aveva cambiato il display, questo radioamatore, mi aveva fatto alcuni lavoretti, insomma, sistemata benino, mi ha sempre funzionato bene. Poi ho iniziato un po' a fare questi difetti e sicuramente, come dici tu, c'è qualche falso contatto, qualcosa che avviene proprio per contatto di schede e fa sì che vada in protezione, quindi si spegne, ma meglio così. E la manderò appena c'ho 5 minuti, la mando da Bianconi, come ho fatto revisionare questa, questo 440, lo stesso ho fatto cambiare tutti i condensatori, tutte le cose che ci volevano, perché aveva appunto un po' tutto a zero, una radio molto ferma, è stata molto ferma, però esteticamente è nuovissima. Io questa l'avevo venduta a Giuseppe, immaginate tu, 7-8 anni fa, 10 anni fa forse, e mi è rientrata a me, questa era la mia, e mi è rientrata a me. Assolutamente no, Giuseppe, assolutamente no, questa è una cosa, ma non solo il 430, anche il base V, lo stesso, questo levatore che è robistica, però ha le mani d'oro, devo dire, è riuscito qualche volta, sempre a sistemarmi le mie cosette, però non lo fa per lavoro, capito, non lo fa per lavoro. Quindi non c'è nessun laboratorio qua a Sassari che capisce di questo tipo di radio, magari di baracchini qualcosa se ne intendono, ma questo tipo di radio sono molto complicate, se non le mandi fuori dove c'è l'assistenza tecnica non le tolgono piedi, capito Giuseppe? No, non parlo per te, parlo per quell'altro apparato che è bloccato. No, Giuseppe, direi mandamelo da Valerio e lo Antonello, ma non sono cose da toccare quelle, capite? Ci vogliono strumenti per poter fare le tarature, per poterlo controllare, niente. Alghero non c'è nessuno, c'era un periodo uno che riparava baracchini via la pietraia. Mi pare che ci sia ancora, ma non credo baracchini, su cosa lavorano intanto un'idioma basta. Lì, sì, io mi ricordo quando c'aveva il laboratorio Orafo Romolo lì alla pietraia, proprio un po' più indietro rispetto a Angelo Matti, e mi ricordo c'era uno che aggiustava appunto televisori e un po' di tutto, però si occupava anche di baracchini, allora ce n'erano tanti ad Alghero, quindi li portavamo tutti lì, capito? Come qua a Sassari, c'è Vittorio che è al laboratorio appunto TV eccetera, però fa anche qualche riparazione ai baracchini, ma non è che ne faccia tante, capito, perché non ha tempo per mille cose. No, ti ripeto, se c'è qualcuno ti faccio sapere, se è una cosa che si può riparare qua a Sassari va bene, se no lo devi spedire fuori, Giuseppe. Io Giuseppe, così è. Che io voglio entrare avanti, Massimino Boldote. Ehi, buonasera, buona Pasqua a tutti. Buonasera, buona Pasqua anche a lei, famiglia. C'è Giuseppe D'Alghero, gli altri sono tutti in chiesa a salutare il prete. Ehi, saluto a Giuseppe, non so se mi ascolta, e a te, là. Se ne cambiano tutti i saluti qua. No, i saluti pure a me, buonasera. Scusate che è arrivata mia moglie e stavamo mettendo il maiale sul forno. Sì, ma a prescindere che è arrivata tua moglie e mette il maiale sul forno, non ti costa niente a dire, un attimino riprendo subito, capito, bello bene? O ti faccio parlare con Muro? No, è che è stato tutto in improvviso, quindi sono dovuto andare a dare una mano per forza, non potevo mollare. Stiamo scherzando. Faghese, oggi. Ok, avanti Giuseppe, l'hai sentito Massimino Bulldogger, il numero uno della zona degli punti? Vedi un po' se mi ascolti adesso, ciao Giuseppe con la buonasera. Perché adesso mi sono tirato sui pantaloni, capito? Prima ce li avevo abbassati. La cinghia di che diametro è? 32, va. Adesso sei bello pimpante, perché tra il cinghia e il cuore è cavallo, fa piacere sentirsi. Va bene, va, Giuseppe. Ci siamo messi un foglio di carta sotto, là, c'è un casino qua. Di Bonga in capo. Come Giuseppe? No, volevo dirti che praticamente... Perché capisce sassarese? Risorso, come il tuo senso del mare. È un pochino più alto è qua, Risorso, va. Perché proprio mi arriva veramente bene. Ah, Claudio qua è il numero uno della Sardegna, capito, del nord Sardegna. È un capo di bugnetta, però il numero uno, va. Oh, Massimi, ha notato Giuseppe, ha 88 anni, la differenza tra il 4.30 e il 4.40, allucinante. Lo devo mandare a mettere a posto con la radio. Ma lo sai quanto ha durato? L'ho lasciata accesa, sono andato a cenare, sono tornato ed era spenta. Una mezz'oretta te la fa fare allora, va? Sì, ma è, come diceva Giuseppe, qualche falso contatto di scheda che magari surriscalda e sgancia l'alimentazione, perché per il resto è favolosa, non ha niente, nulla. Corrisponde a tutto, potenza, Sant'Antonio mio, potenza c'ha 100 watt di portante bianca, 150 e 80, mi ricordi? 150, 170 modulati, ne ha più di questa, però è la radio che c'è una radio in trasmissione, una ricezione favolosa, se ne è accorto Giuseppe, figurati, mi ha detto cosa sta avvisando l'altro giorno. È un peccato che la radio tenerla così, Claudio. Lo so, Massimino, lo so, però non è che non non c'è la possibilità, potrei anche farlo, però te l'ho detto cosa devo fare, lo sai, non ti nascondo niente, ho la priorità prima di tutto a fare quella cosa lì e poi magari buttarci qualche 200 euro, perché se tu la mandi da Bianconi lavora già con una ora pazzesca, capito? È dalle 18 alle 22 euro ora, più c'è il viaggio, andare e tornare, se lì c'è un falso contatto deve tutto aprirla, eccetera eccetera, poi magari vede qualche componente in perdita e te lo cambia, e ci partono sempre quelle 200 euro, minimo 200-250, capito? Non ce le voglio buttare adesso, aspetto magari che ci abbia qualcosa da proprio da in più, massimi in più da buttarcelo sopra, gliela mando e me la faccio tutta revisionare come ho fatto al 440, capito? Sì, va bene. Addio Giuseppe, io ho un base, se lo vuole le do un base, un ricevitore e un linearetto, se mi dà questi 80. Hai sentito cosa ti ha detto Massimo Bulldozer? Cambio. Eia, sta uscendo bene, va bene Giuseppe, no, sta uscendo bene, invece aveva la potenza tutta al massimo, gli andava in protezione con la radio, gli si trovava, non gli si spegneva, praticamente non andava in trasmissione, è andato Valerio e c'aveva la potenza a manetta, anche che tirare su Mickey Ginne o Massimi, però fattibile per lui questi errori, non è che posso dare le colpe. Ha messo a manetta il power ed stava trasmettendo con 150 watt importante e quindi faceva due passaggi, boom, e la radio andava in protezione, e la radio gliel'ho messa a 50 watt, mi pare, infatti arriva a 9-10 quasi adesso, però la radio è favolosa, adesso va bene. Dimmi genio, dimmi, quindi hai messo il porcetto in forno? Sì, sta prendendo quasi colore. Sì, appena butto, dai, già colore sta prendendo. Dai, appena messo sta già prendendo colore, non è buona. Ma non è il forno a legna, eh? Il forno a cucina. No, non l'ho appena messo. Sta iniziando a bullire sotto il grasso. Ah, ecco, allora... qua ti devi correggere le parole, mi chiamo già il capo di bugna. Infatti a lui io non... Nel porcetto di agnello ci sono fatto al forno, capito? E un po' di antipastini e basta. E io non li posso mangiare, fatto al forno. Ma abbiamo fatto due fettine di cumulo e due di trudio. E allora io andavo. È un po' misto, beato te che ci avevi due primi. No, due primi proprio. Fettine di culo e due fettine di scorreggio, capito? Beh, buono, dai a dire. E lo capisci, già si è tirato, no? E io l'ho già denunciato, già va bene. Già va bene, Aiglia, già va bene. Sì, però io martedì sera faccio Massimi. Lo chiamo a Carlo, a Bianconi, e vedo un po' se... Cosa mi dice, perché non gli ho detto ancora niente. Io lo so, ho detto che devo mandare un 430 revisionale, ma ha detto va bene, mandamelo quando vuoi, però non gli ho detto esattamente che cos'è, capito? Che problema fa? Questo mi dice mandamelo da una fesseria, insomma, 100 euro me li gioco. Ma ti conviene, se lo spedire lo dice a Daniele, motrice, ti fa risparmiare qualcosa, no? Nel viaggio è andata ritorno. Sì, ma non c'è problema, c'è anche la GLS, quando ho spedito il 940 pesava 25-800, ma hanno fatto passare per 20 kg, ho risparmiato un sacco di soldi e mi avevo mandato a guardia direttamente a nome suo, non c'è problema per le spedizioni. Non è quello il problema è sapere quanto ci vuole a metterla a posto, capito? Perché ti ribadisco che in questo momento ho delle priorità assolute, già l'hai vista la macchina, quindi devo portare la macchina a Roberto e non ci voglio buttare su via la radio, capito? Però penso il prossimo mese, insomma, inizio anche a fare un po' di straordinari, quindi ci ho in più e lo faccio questa cosa, perché è veramente un peccato, già l'hai vista che nuova. Il mio 48, magari questo qua è sul Mercedes. facciamoli girare questi soldi, facciamoli girare. Qui è rientrato l'eremita. Capito, e chi se lo può permettere, capito? Cos'è oggi? Ciao Sandro, buonasera, buona Pasqua. Cos'è oggi? Ho detto a finire, quando spedisci a finire anche il mio 48, magari riesci a aggiustarlo, il primo ce li ha. Allora, il tuo 48, fammi capire. No, a causa sui 100. Ah, io mi vado di Baracchini, ciao Sandro, di buona Pasqua. Anzi, buon fine Pasqua, buon inizio Pasquetto. Ah, che non ne fa Baracchini, io già Baracchini. Baracchini le spedisco, che non ne fa Baracchini, fa roba così HF, capito? Solo radio a sintonia continua, fa Baracchini, fa. Boh. Sandrino, e allora cosa ci racconti? Eia, dai, buonasera circolare a tutti, buon proseguo di Pasqua a tutti, vari ascoltoni e trullallera, va bene. Ma Eugenio non lo conosce a Carlo, quindi i baracchini, se gli dici di metterti a posto un baracchino ti ride in faccia, vabbè, comunque, va bene, tutto ok, tutto a posto, state bene, sì? Ma cosa ne so, io carico il guaccio, cosa ne so, io credo che fosse uno che aggiusta tutto. Mi sente lui, è uno che... è uno che, non aggiungo altro, è uno che se la guarda la radio dice tu, aspetta, dammi 5 minuti, la preletta subito cantando in italiano, no, gliela mando qua per 30 perché c'è un falso contatto, mi gira la scatto per tenerla così, poi per 40 me l'ha completamente tutto revisionato, tu immaginati che questo era fermo più di 2 anni, ce l'aveva Roberto, quando l'accendevo non c'era né recensione né trasmissione, niente, completamente zero, accendeva solo e boom, capito? Manco display a tariffa, mi ha cambiato tutti, ma tutti dicono, non è rimasto uno, tutti i condensatori, tutto, l'aveva la Z, l'ha revisionato tutto, e quindi ne valsa la pena, diciamo, perché la radio era a posto, tu poi già lo conosci perché hai trattato sempre tu più di me, anzi, la mia, la prima che mi avevi fatta mettere a posto tu. Perché non fa baracchini, capito? Fa solo radio amatoriale e basta. Avanti Massimino. Io non so, Luigi, se tu la puoi mandare, qualcuno già si conosce se lo vuoi mettere a posto quel 48. Intanto ci vogliono solo il trimmer di Apple Claudio, due trimmer nuovi. Ah, se lo dico a Claudio, una compagna si riprende. Io quello che ho visto ti ho detto, Luigi, e poi come dice Massimiliano, non ho comprato nulla di baracchini, mi ha detto bene. Però, vedi, Massimiliano ha degli agganci più interessanti, registrato un vecchio, degli agganci più interessanti rispetto a me per quanto riguarda i baracchini, quindi se vuoi io non ho problemi. La prima volta tu mi autorizzi, c'è Massimiliano qua, la prossima volta che viene Massimiliano, che viene spesso a trovarmi, io glielo do, capito? Glielo do e te lo fa mettere a posto. Chiaramente prima preventivo e tutto, perché ho visto che è molto mangiato dentro quel baracchino, quindi un tecnico, uno che lo fa, anche un hobbista che conosce bene quei baracchini, lo vede e si mette le mani in testa, quindi non so se c'è da cambiare solo i trimmer o ci sia da riprendere un po' tutto il sistema di trasmissione, capito? Quindi è chiaro che quello te lo può dire solo uno che conosce i baracchini, io non te lo posso dire, io gli ho visto 2 trimmer rotti e così ti ho detto, poi tutto il resto non lo so. Già ne parliamo Massimo. Vai opaco, preparalo, 10 a andare, 10 a tornare, poi ci saranno una ventina di euro di spesa di cosa, capito? Metto la posta. Chi è questo break? Avanti? Avanti break. Buonasera, ben sentito, grazie agli auguri, buon fine Pasqua anche per te, giornata domenicale, buon inizio di Pasquetta per domani e tante cosce belle. Ti mando avanti Sandro da Porto Torres, avanti Sandro. Oh, scusate, io mi devo aspettare, ciao, a dopo. Sì, ok, ciao Genio, alle prossime. Saluto l'amico di Inalghero, non ho copiato bene il nominativo, però sarà un po' tribola che mi possa tirare fuori. Tutto lì, va bene. Cla, riprendi, vedi un attimino l'amico di Alghero se è riuscito a tirarmi fuori. Ti vado a tirare in plastica, vai forza. Grazie per essere entrato a salutarci, quindi vi ha ascoltato tutti, microfono allora, Eugenio si è staccato, ciao Eugenio, buonasera, microfono per te Massimo. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato, io sono un po' negativo di Paraglio, ma comunque riesco a tirarti fuori. Buonasera con la buona Pasqua e tante belle cose calde. Avanti Franco, come si chiama? Ma adesso mi sfugge il nome, le porto sotto. Sandro, ma falla. Oi oi, come siamo messi? Vabbè dai, siamo in periodo di feste, quindi anche accettato, ok. Ciao Franco in Alghero, dai, ti ho sentito, bello squillante almeno dalla mia posizione. Sono riuscito diciamo a tirarti fuori. Va bene. Massimo, vai piano. Il bicchiere invece di alzarlo tutto in una volta, alzalo graduatamente. Ma non hai capito, mi fa male il braccio, sto bevendo quella di mezzo. Ecco, vedi, allora hai superato già il tuo limite. Se stai usando il braccio di mezzo, evidentemente hai superato il limite. È così Claudio. Sandro, latte macchiato. Ehi, va bene. Vediamo un attimino se c'è Giuseppe in Alghero. Oh, Giuseppe. Io ci sono, e solo per farti una domanda. Il tuo apparato, con le grandi trasmissioni, non si consente di correre, se mi mangia tranquillamente. Non è che ci sia un pulmine leggermente distaludato nella parte interna del filo. No Giuseppe, perché il collegamento io glielo do praticamente da quello del 440, capito? Stacco la spina del 440 e l'attacco al 430, quindi l'amperaggio quando io schiaccio la portante la stessa potenza, per dire 50 watt, ha lo stesso amperaggio in assorbimento rispetto al 440, quindi è proprio perfetto. Se non si spegne tu non noti nessuna anomalia, perché è perfetto, non ha nessun problema, sia in ricezione, trasmissione, come assorbimento, come voltaggio è uguale, lo stesso alimentatore che io uso con il 440 uso col 430, però dopo una ventina di minuti, mezz'ora, si spegne completamente, cioè non ti dà la ricezione, no, si spegne proprio, tu stai trasmettendo come che le manchi l'alimentazione, si spegne, capito? Aspetti per dire 2-3 ore e poi si riaccende, lo riaccendi normalmente, quindi è proprio qualcosa che scalda e non so se è il termine giusto di protezione, stacca l'alimentazione, non so. Caso è anche l'alimentatore. Spesso è per la vita. No, io l'altro giorno stavo trasmettendo per circa 20 minuti, era perfetto. Poi sono andato a cena, l'ho lasciato acceso, sono andato a cena e sono tornato ed era già spento. Sandro, l'alimentatore non si spegne, no. Non si spegne l'alimentatore, in modo più assoluto. Si spegne lui, purtroppo. No, ma lui ti ha chiesto, Cla, se assorbe 20-25 ampere con l'algeggioli. Guarda, allora, il 440 io ce l'ho a 30 watt modulati 50. L'assorbimento è 10, 15, 16, quasi qui, 15 ampere, 15 ampere di assorbimento, ok? Neanche. C'ho così tre piccini, aspetta, mi metto gli occhiali, poi c'è le confesserie. Allora, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 13 ampere, 14 ampere di assorbimento, ok? Se io attacco l'altro l'assorbimento è perfetto, uguale, stesso assorbimento, parità di potenza. No, ma è giusto, è giusto. Una trentina di watt sono 15 ampere, sì, è giusto così più o meno. No, volevo fare una domanda a Sandro. Sandro, ma spiccioli arrotolati, rimastitene solo per domani mattina. Solo. Sto incasinato. Non ti ho capito, Massimiliano. Ti ho chiesto per domani mattina se ti sono rimasti spiccioli arrotolati. Ah, rovito dopo, va. No, no, no, c'avevo il computer acceso e c'era un programma che stava andando. Massimiliano, se te lo dico non ci credi. Se mi entro le mani in tasca non mi trovo neanche un centesimo. Non ci credo, tu sei proprio brutto d'un reso, io sono 5 di cuglio. Claudio. Io me ne vanto se sono 5 di cuglio, capito? L'importante non sia Sassarese Magna Gaura. No, oltre sono 5 di cuglio, pure un legno avete, compreso. Cazzo, io non ci trovo a 2 euro, non ci credo. Ehi, dai, dai, non siamo a questi, non siamo a questi livelli, dai, qualcosina ce l'abbiamo ancora. Già ce l'abbiamo, sì, sì, sì, non c'è problema, dai, non c'è problema. Si può sempre fare una caffeina, dai. No, mi sembrava strano, già lo sai che il turista paga la bere, il turista per sempre. Claudio, domani mattina alle 8:30 al bar di San Giovanni che è aperto, Il bar di San Giovanni che è aperto, io alle 8:30 ho già fatto 2 ore e mezza di travaglio. Domani entro alle 6:30 e esco a mezzogiorno e mezza, Massimiliano. Domani si trabacca. Ah, è vero che tu lavori, là. Oggi ero libero, domani sono al lavoro e poi c'ho anche la reperibilità, però non è molto importante perché non ci sono grandi cose da fare. Però domani mattina devo andare. Si trabacca domani, se no lo sai. Il piacere è tutto mio, prendo una caffeina con voi. Ma dimmi una cosa, per martedì si fa quel lavoro o cosa dobbiamo fare? Certo che sì, certo che sì, ha già preso tutto l'attalino. Abbiamo il problema delle staffe Massimo, che praticamente quelle lunghe non c'erano, allora ne ha preso 6 di quelle corte, che però si possono aggiungere, capito? Ah, va bene, là, va bene, ok. Avanti, Franco di Alghero. Grazie a Franco, questa che è qui Rix. C'è Giuseppe, che già lo sentite, avanti Giuseppe. Bella radio, no? È un po' bassino, Santiago 5 mi arriva. Sì, la radio è bella, però. Giuseppe, stai usando sempre il microfono che ti ho fatto io, sì. La stazione rilascia tale quale come tu l'hai lasciata. Come io te la posso fare. Il microfono è solo a tavolo e l'altro è a riposo. Bravo, usa quello da tavolo, gli altri lasciate tutti a riposo, che stai andando benissimo, finalmente, benissimo. Capito? Va bene, quindi non era il microfono che non andava, ma bensì il problema della radio che era al massimo della potenza e quindi ti andava in protezione, quella andava proprio in protezione, meno male che c'hanno queste caratteristiche, queste radio, e quindi è per quello che ti si bloccava, capito? Va bene, avanti Massimo. Oh, scusate un attimo, ok, dai signori, vi lascio, dai, buona serata, buon tutto e alle prossimine, rimango in ascolto. Ciao Sandro, tante cose belle, ogni tanto quando hai 5 minuti al telefono ci sentiamo. Andare, ciao Sandro, buona serata e buon divertimento. Sì, sto facendo bene Giuseppe. No Giuseppe, non voglio vendere, non voglio fare scambio se sei interessato. Hai sentito Giuseppe? No, un 220 in AM, un ricevitore. elementi per l'AM, un ricevitore, capito? Il cambio di quella radio che stai usando adesso, cambio e cambio. Anche un lineare. Ehi, non ti preoccupare tu dei ricordi di Claudio, se devi fare il cambio fallo, non ti preoccupare. Anche un linearetto ti do. Anche il linearetto ti do. Anche il lineare ti dà per uscire più forte e più prepotente, Giuseppe. Certo che conviene, certo che sì. È come il fustino dell'asino, prendi due e paghi uno. Radio base in AM, dille però, eh. In AM. Quello quel ricevitore in Oli, piccolino, quello VU, un linearetto 747. Chi già ti sente lui? Ma mi senti, Giuseppe? Allora, c'ho una radio base, capito? Una radio base 220 in AM, 4 watt e 20 modulati, lineare e un ricevitore VU, nuovo nuovo. Hai capito, Giuseppe? Io cosa faccio? Cosa devo fare? Già si può fare, sì, Giuseppe. Se tu dici che sei affezionato, va. Essere affezionato a una cosa, non sono morto, no? Io ho delle cose che sono molto affezionato, di cui Sandro dovrebbe essere fiero se l'ascolto, perché io ho un base standard che era uno dei primi radioamatori di Porto Torres, che adesso non c'è più, dico dei primi veramente, UHF base che Sandro mi ha dato appunto come ricordo, ce l'ho sempre proprio completamente rimesso in ordine e ce l'ho sempre quello. Poi c'è un portatile di un carissimo CB che è di Porto Torres sempre, che non è morto, cioè che è morto, e quindi mi tengo questo portatile come ricordo. Ma se tu ti vuoi tenere la radio che ti ho venduto io come ricordo, e io sono qua, e che ricordo hai? Ci sentiamo tutti i giorni. Ci mettiamo d'accordo una sera con Massimiliano, così, capito, vengo anche a vedere come ti sei organizzato, portiamo su il materiale e vediamo se ti piace, capito, non c'è problema, capito Massimiliano, bisogna andare ad Alghero e portare il materiale per vedere. Aia, aia, aia. Allora, ti ripeto, Giuseppe, un base bellissimo americano, purtroppo le bande non vanno, ma comunque ci parla giusto in AM, non è che non vanno, sono mutte, c'è un piccolo problemino, ma risolvibile al 100%, in AM va benissimo, un ricevitore che è di ultima generazione, VU, e un lineare 747, bello, tutto nuovo nuovo, te lo può garantire Claudio. Massimiliano, carichiamo tutto in macchina adesso dopo questi giorni, perché io domani sto lavorando, eccetera. Vediamo, ci facciamo un salto e vediamo un po' il tutto, capito? Guarda, la radio è il doppio di quella, non ne ha bisogno quella di alimentatore, o Giuseppe, non ne ha bisogno di alimentatore quella, è una 220, capito? Quindi non hai bisogno di alimentatore, perciò lì la radio è molto grande, è più grande di quella che hai. Ci metti quella e il microfono e basta. Tutto il resto poi vediamo come sistemarlo, ma lì l'importante è che ci sia la radio e boh, capito Giuseppe? Gabba a Roggero, là, quando capita l'occasione mettiamo tutto. possono fare gli strappi, Giuseppe, arriva il ghero, 20 minuti, non c'è problema. Arrivederci, ci organizziamo con Claudio una serata così, vado, lo prendo e scendiamo. Ho capito, c'è stato con la gran trenga, da meglio. Poi qua, diciamo, ci attacchi 747, c'hai sempre un centinaio di watt, capito? Tanto si parla giusto in AM, non è che... Già vedi bene che negli altri canali, banda laterale, non c'è più nessuno. Ma lui non ne usa di niente, lui usa la AM e basta, capito? Va benissimo, no, è bella, io l'ho vista, oh, Giuseppe, molto bella quella radio, molto molto bella, capito? Comunque adesso metto d'accordo con Massimo e ci facciamo un salto, dai, intanto io la sera sono libero, lui non ne abbiamo problemi, non ne abbiamo problemi, capito? Già si può fare, già si può fare, se no mi, allora io cosa devo fare? Guarda, io sabato sono libero, quindi sabato mattina Massimiliano lavora, giusto per questa settimana che è un po' incasinata, perché poi lui rientra al lavoro, però dico io sabato sono libero, quindi problemi non ce ne so. Vabbè, già mi metto d'accordo con Massimiliano, Giuseppe. Bella, bella, è tutta, Giuseppe, devo essere sincero, bella, tutta cromata davanti, tutto due bisplay grandi, azzurri, bella, una bella radiolina, va? Una bella ricezione. Superiore a 80 come ricezione, attenzione. Va bene, va bene. Ok, poi ci mettiamo d'accordo con Claudio, ci facciamo una passeggiata. Va bene, va bene, non c'è problema, non c'è problema. Ok, Giuseppe, va benissimo, alla grande. Alla grande, va bene, sì, sì, la Gran Prix già funziona con tutte le radio, però diciamo che quella è meno complicata, ti dà meno problemi, anche per la tua età, meno cose da toccare, capito? No, no, non puoi sbagliare lì, mi. E così ce l'hai, tranquilla, come piace a te, mi, quelle basi grandi, belle, 220, eh? Guarda, questo fatto lavorare tutto all'interno, Giuseppe, 220, capito? A 220 attacca la spina e sei tutto a posto. Ho capito benissimo. Così puoi eliminare anche l'alimentazione. Funziona anche a 13,8, attenzione, però a 220 elimini l'alimentatore. Ho capito benissimo, all'interno c'è un inverter sulla 12 la porta 220, che sembra sulla mia antica, va, chiamiamola qui. Vabbè, Giuseppe, dopo lunghe e penose malattie, no? Che ti ho tartassato per toglierne tutta quella roba che c'hai lì e lasciare solo quella, perché quelle sono radio che devono camminare da sole, capito? Senza niente a fianco, eccetera, eccetera, sono molto delicate, capito? Chiaro, ma io le posso già lo sai qual è, quella nuova è pulita, no? Fatemi un bianco, Giuseppe, che io vado a pipparmela, Hai detto, Massimiliano? Che vado a fumarmi una sigaretta, faccio un attimino di bianco, capito? Anche Claudio, vado a farmi una sigaretta, là. A fumarmi, non a farmi. Dai, una veloce, veloce, poi riprendo. Ehi, ehi, vai a fumare, vai, Gabriel Boniel, vai. Sant'Antonio mio. Io, come sto? Va bene, Giuseppe, non ti preoccupare, vai. È una cosa molto bella quella comunque, a prescindere, perché non ce l'ho qua, ce l'ho, avevo, l'ho tenuta qua un pochino, se no ti avrei mandato la foto, anzi mi sembra che ce l'ho la foto, mi sembra che ce l'ho, Giuseppe, adesso controllo, se ho la foto te la mando, ma è una cosa molto molto bella, penso che sia una delle più belle che c'erano a suoi tempi in commercio, capito? Giuseppe. Ho capito, molto probabilmente deve essere qua stata totalmente persa. per tenere queste cose, capito? Perché c'ho altre cose, quindi insomma è un po' così. Però se avessi avuto posto da tenere quel tipo di radio, tranquillo che l'avrei tenuta una. Io ne ho una che è sottolineata il più grande baracchino al mondo del DAC. Del DAC, un valore enorme, lo tengo solo quello e basta. Il microfono da tavolo oppure il microfono portatile? C'è il microfono suo da palmo, capito? Però non ci vuole niente adattare il microfono di tavola. Sì, beh, lì per dare un aiutino alla potenza che c'ha 4 watt e 20 modulati, che sono già tanti, però per dare un aiutino si mette questo linealetto aggiuntivo a transistor, che tu non fai altro che con un alimentatore accenderlo e lui va da un centinaio di watt, quindi diciamo che linea di massima non ti cambia niente come potenza. Ascolta, la domanda è lineare, vuole alimentato? Sì, Giuseppe. Aspetta Giuseppe che sono a telefono con un collega. Vai. Aspetta che sono al telefono. Oh Giuseppe, guarda, era al telefono con mia sorella. Domani sera sono ad Alghero, tu ci sei? Guarda, io partirò verso le 4:30, una cosa del genere. Ci sei? Sei a casa tu? Vabbè, già c'ho anche il numero di telefono, quindi non c'è problema. Se sei a casa passo a trovarti, ok? Non lo so, adesso vediamo. Se non ho niente da fare magari lo porto, dai. Però io sono ad Alghero, capito? E così se Massimiliano vuole venire lo viene assieme a me. Tanto anche lui è algherese, non pensare che il padre è di Alghero, quindi, capito? E magari così mi prendo la radio e te la faccio vedere, ok? No, Vecca, ci vieni Alghero tu domani? Io domani mattina veramente sono già ad Alghero, a casa mia. Ah, mi vedi? Lui è Alghero domani, te l'ho detto, lui il padre è algherese, capito? C'è la casa di Alghero. Quindi allora Massimiliano, prendi quella radio, così gliela facciamo vedere a... Tanto io sono Alghero di pomeriggio, capito? Gliela facciamo vedere a Giuseppe. Va bene, non è mio padre di Alghero, è mia mamma. Ma è vero, tua mamma era Alghero, certo. Scusi, che voglio. Massimiliano, in che zona? No, allora, io vivo a Sassari, però abbiamo una casa lì a Calabona. Lui che zona sei invece, Giuseppe? Santa Cristina, di fronte alla chiesa. Ah, ho capito. E lì vicino ci abitano tutti i miei zii, là. Cimino. Domani mattina non lo so se ce la faccio, perché magari dobbiamo preparare le cose in casa, ma dopo pranzo magari mi posso fare una scappata, mi vado con Claudio e ci possiamo vedere lì da te. Sì, ci vediamo, guarda, che mai poi mi naturalmente. Passo al limite a prendere a Claudio, ci diamo un appuntamento e veniamo a trovare a te. Roger, grazie a tutti. Niente, avanti Claudio. Sì, no, ma intanto domani mattina io non ce la faccio, quindi passo a prenderlo io lì ad Alghero e ci avviciniamo nel pomeriggio, Giuseppe, capito? Lascia fare a me, che lui non dice le cose e poi non si ricorda quello che deve fare, capito? Che lui domani mattina se va ad Alghero lo mette a lavorare il padre, non sta pensando a... capito? Già passo io a prenderlo e ci vediamo lì da terra, prendiamo il caffè, ci facciamo due chiacchiere e così vedo come ti sei sistemato. K, va bene che va bene, dai, non ti preoccupare. Bene Meda, e il tempo lì com'è ad Alghero, com'è Sassari? Buono. Ho capito Giuseppe. Ha giù capito. E quindi quello della ferrovia che parla qui a Sassari, te lo ricordi, sì, a Franco? Certo. saluta comunque Franco, e anche l'altro giorno mi ha mandato i saluti. E ci ha detto mia già, no, è vecchietto, vecchietto sei tu. Lucio, ma non è che lo conosci, no, Raghello, lo dimoni? Ma c'è l'altro di De Baldino. Quello era mio nonno. I miei cugini sono tutti pescatori lì, mio zio. Hai capito, Giuseppe? Va bene, mera. Tanto io una mattina scendo dal ghiero, ci facciamo un bello il pranzetto e poi dopo pranzo ci vediamo con Claudio e passiamo a darti gli auguri, da. Amico, perché è il marito di un'ex collega di mia moglie, quindi ci conosciamo da tanto tempo, capito? Ci conosciamo da tantissimo tempo. Mia moglie e quella moglie hanno lavorato 16 anni assieme. Piero lo vedo non molto in questo periodo, è un po' ritirato, cioè. Ma prima avevo modo di vederlo spesso perché frequentavo molto assieme a loro, capito? Perché il è amico di miei parenti, capito? E poi quando io ero a Perfugas loro seguivano molto quelle linee lì, i passaggi di Velli che c'erano in quelle zone, quindi ci vedevamo molto spesso con Piero. Mentre con Gianfranco quasi tutti i giorni. Comunque tutta quella graffetta, c'è anche Vincenzo, però Vincenzo era capotreno, non era le manutenzioni. Peppico che era capotreno lo stesso, non era le manutenzioni. Una bella graffetta comunque lì in quella zona dove eri tu. Mamma mia, dove sto? Ma non ho trattato nessuno qua, Miroso. Ciao già, buonasera, ben ascoltato. Buona strada, mio hermano. Buona Pasqua, anche se già arriva, ma sempre c'è, ancora siamo in tempo. Avanti, Claudio. A me, secondo me, tutti mi sei vicende. Buona Pasqua, caro Gianni. Buon fine Pasqua, buon inizio Pasquetta per domani, visto sono già le 8 del 20.05, asciugato le 20.05, che pede con caldo ancora non si è alzato, no, come l'ho portato tardi oggi. Ciao Gianni, ben entrato, buonasera. C'è anche Giuseppe D'Alghero, vai per lui se ti accoppia. Ciao Giuseppe, buona Pasqua anche a te, avanti. Io dico la verità, ero con l'amico e cose, poi sono tornato a casa, mi ero molto stanco, poi mi sono sdraiato e mi ho fatto un pisolino, dai, dico la verità, ma mi sono svegliato adesso. Guarda, con difficoltà è questo doppiaggio. Hai parlato di Franco? Meglio mi ascolti, Giuseppe, così. Certo, così ti sento benissimo. Ti ripeto, ci abbiamo messo quel foglio di giornale sotto i piedi, là. 9.30 sì, qua. 9:30 stai arrivando. Ma stai usando quella radio, Massimiliano? No, sto usando un altro, 8.001 questo. No, 8.001, bene, una bomba. E allora, Doppio Rutte, cosa ci racconti? E niente, che poco fa si sentiva male, però stava male, e tu dice che era arrabbiato, aveva la testa, era scusolato. Ho capito, Sì, l'ho sentito anch'io per corso. Messenger, su WhatsApp, mi ha detto che non stava bene, continua a avere questi sintomi un po' così, che non si capisce da che cosa, vabbè, sono sui vasi di analisi, ciù, ti si batticci in mania. Oh già, molto ti sta arrivando lì da te, segnale, buono. aspetta che guardo bene, mettere in bici, perché se no ti la fucilia che ti avrebbe dovuto abbandonare. Provo bene, ma ci mi dici spara 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po'. 9, 3, la spaccata. Ecco, anche tu sei così, va? Va bene, va bene. A te lo stesso, Claudio, 9.30? Alghero, 9.15 sono, caspita. Hai visto, da quando hai tolto l'attenuatore in quel C80, finalmente sta ricevendo. Se non ti dia nessuno, è andato fuori, devo avere l'attenuatore del 20 dB in meno. Solo a me sentito, solo a me sentito. Io. Perché tu sei la torre di controllo, capito? Allora, io sono con 30 watt e 50 modulati, o Giuseppe. Ma si inchiola questi 80. Sì. Domani sera la voglio sentire per vedere quanto mia Pippo, ehi, ha fatto, ti sì, finalmente era ora, le 8.10 sono, di solito c'è le 7.30 lui. sì, non lo so che ti arrivo a bombarda lì, sei 9.10 tu, quindi Gianni, quanto ti arriva Giuseppe a te? Gianni, a me parla di segnale. Aspetta, avete parlato in due, cosa hai detto già? Prova Giuseppe, prova a parlare che Gianni deve vedere quanto gli arrivi. Gianni, dimmi se devi arrivare 9.20, 1, 2, 3, 4, 5, adesso come va? Santiago, sì, radio 5. 9.20 Giuseppe, non arrivi 9.10 a me e vuoi arrivare 9.20 a lui, Santiago sì, stai arrivando da lui. Ma io non voluto avviare. No, dentro Sassari non mi hai segnale come c'è qua Giuseppe. Arrivo 30 pieno io con 30 watt modulati e tu sei 9.10 qua, quindi va bene, non ti preoccupare che già va bene, c'è questo collega mi sta ammazzando con questi messaggi, scusate, adesso lo mando a fare in culo, così non me ne manda più messaggi. Dille di non stressarti, Ocla, che oggi è Pasqua, KK, va bene, no. Avanti, Rubio. Sì, io me ne sono andato a farmi girare la tavola poco fa, l'ho trovato anche Eugenio, abbiamo fatto una ceramizzata e poi me ne sono risalito, mi ero con cane, sono andato a fare una passeggiatina. Dopo che sono andato a casa degli amici, siamo andati a farci un giro, ero come un nipotino e siamo andati a farci un giro lì. Ma è deserto, è proprio una cosa allucinante, me la trattavo una... è degradante. E c'era anche il bancarelli, non ti figurati, nel giorno c'era manco bancarelli. Per il momento sono io, sono andato verso le... penso fosse le 5 e mezza, magari più tardi c'è gente, ma era deserto. Scusate, stavo mandando un messaggio, avete rompe balle, così non mi stressa più. Mamma mia, tutta la sera mandando messaggi. Neanche il giorno di Pasqua mi lasciano i santa pace. Ma anche a te Giuseppe, quando eri operativo ti stressavano, ma telefoni non ce n'erano allora, no? Noi siamo stati in giro a scrivere la linea telefonica a Sassari Paolo. Hai capito. E chi era il boss? Tu eri? Io sono stato il boss e il progettista, già lo so che il boss è il progettista. Cos'hai fatto le industriali Giuseppe? Non ho capito. Cos'hai fatto le industriali? No, ho fatto un regolare corso di geometri alla Marmora e quando loro c'era il corso anche di fisico matematica e poi sono venuto lui a Cagliari e ho seguito il progettista di Giuseppe. Sì, ho capito, già mi ha detto Franco cosa facevi. Certo che sì. Va bene. Ok, allora signori, io però adesso me ne devo attaccare. Gianni, l'hai già portato il cane? No, negativo, adesso, ma fino alle sera, per la tavola. Io non porto. Massimiliano? Sì, un attimino, le stavo mandando un messaggio a questo amico, mi sta tracciando, dimmi. Ma anche tu, mamma mia, Garaga, oggi con questi telefoni ti siamo attendi. Vabbè, oggi è Pasqua, dimmi, Claudio. No, no, niente, che mi staccavo così, mi preparo, vado a portare il cane, tanto Giuseppe adesso va a cenare, e ci sentiamo, vai. Quindi vi saluto momentaneamente, se ci siete dopo, mi fa piacere, altrimenti ritenete vi salutati. Ciao Giuseppe, dai, ci vediamo domani, così ti faccio gli auguri, che siamo da molto che non ci vediamo, dai, ne approfitto così passo a trovare mia sorella, a mia sorella, no, mia sorella, e ci vediamo 10 minuti. Ciao a tutti, buon fine serata, alle prossime, ci sentiamo, ciao ciao. Capo di bugnetta, sì. Ammazza. Più o meno. Va bene, Giuseppe, a domani. Ciao, Giuseppe, dai, ci sentiamo alle prossime. Buona sera, buon tutto, se in caso ci vediamo al più presto, va. Salutiamo a tutti. KK, avanti, Gianni. Sì, adesso tengo un pochettino in cui vado anch'io. C'è da proprio qui già la mandromia e non c'è più gara a voi. Sì, sì. Ciao, Claudio, dai, ci sentiamo dopo, magari se capita. Se rientriamo, se no, ma te. Oggi è Pasqua, già si può fare, domani è Pasquetta. Me la sono scappata tutti e due, Pasqua e Pasquetta. E noi eravamo in te che stavamo... Parlogero positivo, dai. Un secondo io solo che stanno chiamando al telefono, eh. Dai, ciao a tutti di nuovo, rinnovo i saluti, ciao anche a Lucariello, mi pare. Ciao Gianni, ci sentiamo, ciao Massimino, ciao Giuseppe. Un abbraccio a tutti lì, Massimo, eh. Un abbraccio circolare a tutta la truppa lì che è a casa tua. Ciao Daniele, un bacione grande grande. Ciao bra. Avanti. Luca Manicomio, buonasera. Ciao a tutti, auguri a tutti, ciao Gianni, ciao anche a quello di Alghero, Massimiliano, Claudio, e poi non so. Ciao Luca, contraccambiati gli auguri. Beh, com'è andata questa parte, com'è andata? Ah, io ero in campagna, praticamente vabbè, mi sono messo a lavorare sulla macchina che si è rotto il filo dall'apertura dello sportello, dall'interno però. L'ho smontato però niente, no, un casino già. Adesso bisogna portarlo alla forza. Comunque trovare qualche amico che magari fa a prezzo buono, li compro il filo e me lo faccio cambiare, perché è un po' difficile, è tutto un casino, c'è il motorino del finestrino da smontare. E beh, un filo non si può collegare, non è facile da collegare. Ma cos'è, sono staccato, che cosa? No, se è sganciato, se non si è rotto, boh, lo so già. Quindi per vederlo devi svoltare, ho capito, spero, se non si deve essere tante cose, meglio lasciarle fare a loro. Succede. E allora, come mi stai ascoltando, via? Sempre bene, sempre bene. Sono a chiedere Giuseppe di Alghero, mi ascolti? Forse non mi senta. Giuseppe, Alghero, sì, Giuseppe. No, ragazzi, cos'è dove sei andato? E tu stasera non fai niente? No, io sono appena rientrato già, fuori l'insulina a mamma. Adesso, come si dice, aspetto un po', le faccio quella delle 10 e poi me ne vado a letto. Una mattina devo andare, siamo già organizzati, andare a Plattamona con amici. Pienta? Sicuramente sì. Amici, vabbè, che fai i miei fratelli, dai. E gli altri verdi, interessante che sia gente di greca, io me lo ricordo, facevamo anche noi chitarra, fuoco, tutugano, ci divertivamo bene. E da vostro? E infatti l'unica è quella, meno lontana si tanto, perché con il traffico che c'è, poi domani a tornare è un casino nero. Io volevo andare a farmi il giro, perché di mattina sono invitato a pranzo, e poi la sera volevo andare a farmi il giro, con mio figlio e con mio nipote, e invece ci sto pensando bene, volevo andare a Stintino, poi ho pensato a Pollino Rosso, dice di Dato, anche la donna, non convenevo così tanto, ho vado anche io con la Stintino, non lo so, però adesso vengo, un giretto così e fare qualche fotografia, dai, se c'è per la giornata c'è bene. Sì, infatti. No, beh, noi siamo lì, dai. Poi vediamo un po' se tempo permettendo, magari. Ci rimaniamo, e se no. Vabbè. Ma io dico una cosa, che una volta qua stava più vecchio. E questa amica mi ha telefonato, sono andata insieme, no, ma che cosa? Ah, io andremo a Martecci. Oh, andiamo a Pantamone e c'è il sole. Siamo stati tutto il giorno, veramente bene, abbiamo arrostito. Una volta solo ci hanno rotto le scatole, sono tutti imbarazzati con i fucili, cazzo, che sono cagati sotto, adesso ci siete detto ci spugli, perché avevano fatto il fuoco, lui, e gli ho detto, ma volete dirci cosa, c'è questa ricorso cieco, che non si può muovere, l'abbiamo fatto qui per stare a passare la giornata così, e hanno fatto bene, comunque sono deciso, ho preso, le ho preso tanto la testa, e l'abbiamo detto, facciamo l'incendio, abbiamo il bidone vicino, c'è il bricure, era con un fosso scavato sotto, di modo che c'era vicino a Galleria, che c'era sotto, eravamo tutti premuniti di cosa, quando l'ho visto così hanno preso, e sono andati a dire, vabbè, sono partiti con me. Beh, ti credo. Già, lì lo stesso, vabbè, noi andiamo al sacco, panini, tramezzini. Sì, vabbè, ma noi anche ci arrestivamo un pollo, sempre buono, cosci di pollo, alette, queste cose qua, mi arrestivamo pancetta, era buono, anche il pollo, quanto è buono, hanno fatto trovare un sacco. Beh, ti credo, forse è meglio, diciamo, è meglio lo barrotto. Ah, io sto per passarci una giornata per non stare a casa. Ma non è facile, si può organizzare anche così al sacco, un po' asciugato. Io guarda, l'interessante è che sia un po' umile, non sai cosa mi porta, non è meno andare a parmigiana quando andavo al sacco. Poi tonno, cipolle, maionese, pomodoro, panini. Così, quello fa umile. Come stiamo facendo? Abbiamo già preparato i tramezzini. Metti i tramezzini, auguri in due. E poi vediamo. Ah, era... Sembra portare la sua roba, ma poi si mette in mezzo, come io facevo così. Mette per mezzo la roba, poi uno mangiava anche la roba dell'altro. Non c'era problema. E qualche volta sono andato anch'io così al sacco. Mi ricordo sempre una scena che la ragazza che sta ricoverando tutta la mattina, che lui era a fare i tramezzini con la sorella, cazzo, si è messa a dirgli che i tramezzini non gli piacevano perché c'era la maionese, che qua l'ha fatta incazzare come un buco il giorno. Me lo ricorderò sempre quella cosa. Ci vuole la maionese, solo non la asciutti. Poi dipende, se ancora non piace. Vabbè, noi li abbiamo fatti già. Freschi freschi, a guglia. Ma giusto, ripeto, per stare un paio d'ore così. Tanti ore, 6:30 dovrei essere, sì, massimo 7 a casa. Tutto dipenderà, ma poi se viene fame, devo salire anche prima. Sono un chilometro di male per quello. Ma lascia, prendiamo il più forte a avere fame. Io in questo periodo sto mangiando un bel po', mi tranne oggi che ero invitato al cugino di Liliana, siamo andati a ripetere a mangiare, e c'era pasta al forno, agnello, questo, quell'altro, c'era un'altra russa, nella bocca di roba, mangiando poco di tutto, mangio sempre un bel po'. Un attimo già. E andatevi che giù, lui. Devo portare giù il taglio, tu l'hai portato? No. E c'era la... Aspetta un attimo, aspetta, rispondo subito, aspetta. Sì. Ecco già. No, mi sa che la porto anch'io a luna adesso, no, mi sa che non è uscita. No, io già ero una poco fa, non è sì. L'ho portato, infatti ho trovato un giro, mi sono fatto una chiacchieratina, poi ce ne siamo andati. E l'ho portato un po' a pascolare, ma c'era quei cani che stanno con quella gasolana, che stanno quei cani guardati da pacenti, e non fanno, che sono di quelli cattivi qui. C'erano il capobranco, Martino e Sì, voi posso immaginare. Sono come in cui sono. Soffrano i vantaggi e agiscono come fanno i bambini. Vanno anche per dire, questi cani qua, ma fanno anche bestiame. Per dire, si mangiano le pecore, fanno queste cose qua. Ah, ecco. Cazzo, sono un sacco, mentalmente c'ho il cervello vuoto. Poi c'ho questo coso della macchina, mamma mia, va. No, mi toccava stare sul finestrino per aprire lo sportello. Ma cosa sei parlato, il coso del finestrino oppure per aprire? Oh, l'apertura dall'interno, no, c'è quella valletta, quella lì. Ah. Un cappetto per aprire o no? Com'è il sistema? Io ho un cappetto. Era salvato. C'è rotto quello e sarà loro che portare la qualche meccanico bravo. Non darlo per toccare. Lo so. No, ma adesso vediamo. Ora. Adesso mi informo quanto costa il capo, poi se ma sì lui è già buono. Vado a Roberto il meccanico, un attimo faccio dare una mano da lui, o mi faccio vedere come si fa. Io l'ho visto la mangiare la propria torre, era da un meglio che ho visto. Allora mamma c'è poco fa, glicemia 150 già. Mi ha fatto un'insulina, adesso si è mangiato una fettina. Penso che vada bene comunque, dai. A 150 per un diabetico non è tanto, no. A me il dottore quando glielo ho detto che ero 350, ma se la faccio, dice, guardi che ci sono diabetici che da 300 non riescono a uscirne. Se la faccio per un diabetico, se no non sarebbe diabetico se l'avessi più bassa. Però io la verità ero da che a 99, 87, dipende. E tutto è saperci, io stare con l'unità da fare, ma è quello che c'è. Io la facevo per dire, ce l'avevo a 135 quando l'ho misurata, 120, 99, ma adesso sono andato benissimo, l'ho avuta anche a 600 io, mangio. Mamma l'ha avuta a 740. Quello è da coma di abitico, anche a 600 da coma di abitico, mi sentivo male, me l'ho misurata a 600 la glicemia, no, chiamato subito la guardia medica, lì mi sono cagato su anch'io, ma mi ha detto, faccia una cosa, se vede che fra una mezz'oretta non è abbassata, si faccia 5 unità di insulina. Ma io le troppe, prendo aspettato, invece si è abbassata la sola 400, stava abbassando. Invece, Il porcetto non è che ne vado matte perché di più, molto di più l'agnello. E ho visto che era un po' grasso, la parte grassa l'ho buttata. E niente, un po' di salato, un po' di pasta, non faccio un dolce, un dei bicchierini di vino, basta, finito lì. Io oggi l'unica cosa che ho mangiato che vi posso aver fatto salire la glicemia è la creatina. Basta, non ho mangiato altro di dolci. C'era tiramisù, c'era questa, c'era l'altra, non ho mangiato niente. E vi che soffro, perché molte volte a me mi piace. Tiramisù mi piace, soffro non mangiarlo, però devo sapermi regolare, perché poi la glicemia sale, si aggravano le cose, ti vengono le ulcere, questo e quell'altro, e non esci più. Già lo so, purtroppo. Così. E gai su conto, vabbè, bisogna stare attenti, è inutile. Io faccio l'insulina, faccio 4 insuline più prendo metformina per accompagnarla, è una pastiglia che ti fa urinare e però devi bere molta acqua, quello lì ti fa tremare e ti fa, oltre che ti fa dimagrire, ti fa anche ridurre i zuccheri del sangue. Sì, e beh certo. Quale fai tu? Qual è il nome dell'insulina che fai? Allora, la notte faccio Amdazar, che sembra un nome arabo. Amdazar si chiama. E di giorno, non mi ricordo sentiamo ancora di giorno. Lasciami pensare che te lo dico. Siamo a fare Umarog, la Viola, l'altra è l'Altus, la nuvola di nuvola della notte. Quanto ne fa di CC? Ma 6, con la tua panza a cena, e 16 quella di tutta la notte. Sì. Io faccio 20 e 25. No, come mi hanno abbassata, però ho migliorato molto, Guarda mia, aspetti, non rimane più il bicchito, ragazzi. E ormai. Vabbè, non me la fottina. Ah, ti dico, vabbè, niente, comunque la sua ultimamente era un tipo 90, 95, 99, 97, sempre così, 100, 105, 110, così. Da poco non so cosa è successo, non so cosa si è mangiato, gli è salita a 221 di notte. Poi l'ho rimisurata a 211, ma io l'ho segnata, perché il diabetologo come ha di segnarla, quello che ti segna la macchinetta. Però la media è sempre quella, 110, 120, 99, 90, era perfetta. Siccome mamma non è ridotta, non capisce che deve mangiare quello che gli hanno detto. Deve mangiare, diciamo, pesato, ecco, non tipo a capusuglio. E è andato all'ospedale, mangiavo così, senza pesarlo. Vabbè, all'ospedale è un conto, poi lo sanno loro come fare a fatela abbassare, se basta, cioè se è alta fatela abbassare, oppure se è bassa a farla risalire. Ma io che sia a casa, e io non è che sono un dottore o un infermiere. Veramente la dieta devo seguire, perché a micro per mezzo pagino sai che sono circa 60 grammi. Non è per mangiare più di mezzo panino, sono stato alla bollica come faccio io. E io anche mangiando un panino, però già mi resta normale. Da però l'ho svolto dalla bollica. Secondo che panino è, perché se è piccolo poi un po' più di piaciuci, che mi piace in me quel panino, non riesco a farlo mangiare in cuore. A me quando lo mangio quel panino, io voglio mangiarlo tutto. Lo so, io il pane ne mangio a poco. Rispondo alla mia ragazza, 150. Cioè, non è arrivato il messaggio, non mi caricava. Vabbè. Dai, aspetta un attimino già, che la mamma si è portata la luna, sennò poi non la giugana. Una volta che mi spoglio metto il pigiama, fatta. Infatti anche io insomma, vai. Vai tranquillo, va. Una faccio questa, allora andrai in gita, divertiti, tutto tranquillo. Ci sentiamo, vai. Saluto tutti gli amici ascoltoni, Massimiliano, da rientrare, Massimiliano, sì. E già tanto a te famiglia, dai, alla prossima. Ciao ciao, ciao anche agli ascoltoni, alla prossima, ciao. Ciao, ci sentiamo.